thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. There must have paid her a nice price, she's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte e ciao a tutti. L'apertura di oggi è dedicata ad Arin Mirkan, del gruppo femminile combattente curdo IPJ, caduta in un'azione nella difesa della città di Kobane il 5 ottobre 2014. Ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. Questa puntata dei nomi delle cose è dedicata alla scuola. Allora, della scuola hanno parlato in tanti e parlano ancora in tanti. C'è anche una trasmissione, una bella trasmissione qui a Onda Rossa che si chiama L'ora di Buco, che parla proprio della scuola ed è molto precisa nel parlare delle cose. Però noi volevamo parlare della scuola partendo da due momenti che ci interessano particolarmente da vicino e che ci interessano poi anche nella questione di genere. Prima di tutto, prima di qualsiasi considerazione, bisogna che inquadriamo il problema della scuola adesso nell'attuale fase neoliberista, cioè che cosa significa la scuola in questo momento, perché essendo il neoliberismo un'ideologia, la scuola ne fa parte in maniera addirittura fondante, no? Diciamo che il neoliberismo ha introdotto un concetto, e cioè la risorsa umana, cioè la risorsa umana considerata come merce economica. Tant'è vero che io parlo per me nel mondo del lavoro da tanto tempo ormai non si parla più di ufficio del personale, no, ma si parla di ufficio delle risorse umane, che insomma fa un po' da brividire. All'inizio, quando hanno cominciato a dirlo, ci sembrava così strano. E appunto la risorsa umana viene considerata una merce economica, per cui è una visione in cui tutti quanti devono misurare la propria esistenza secondo l'unico valore importante, che è il valore commerciale. E quindi la nozione di capitale umano, cioè la forza lavoro delle persone, lavoratori e lavoratrici, è letta in che modo? Come l'insieme delle facoltà fisiche, intellettuali, relazionali che queste persone, che tutte e tutti noi possiamo mettere in vendita sul mercato del lavoro. Che cosa significa questo per la scuola? Che in quest'ambito la scuola è entrata a pieno titolo nel mercato. È entrata a pieno titolo nel mercato anche perché la scuola è un momento importante, no? È catena di trasmissione dei valori dominanti. E adesso le viene dato un compito particolare, cioè che è quello di formare le famose risorse umane al servizio dell'impresa. Quindi è trattata come un mercato, cioè il mercato dell'istruzione. Però è qualcosa che viene da lontano, cioè non è che riguarda le ultime vicende di quest'estate, la famosa poi recentissima buona scuola di Renzi e compagnia bella, è una cosa che viene da lontano, che è cominciata negli Stati Uniti, si è radiata in Europa attraverso l'Inghilterra, è stata diffusa in Italia attraverso tutta una serie di riforme. Comunque cominciamo da Luigi Berlinguer, Moratti, Fioroni, Gelmini, Profumo, fino ad arrivare qui adesso da noi. Ed è una ristrutturazione che piega la formazione del sapere appunto alle richieste del mercato e trasforma gli studenti in merce lavoro prima ancora che siano inseriti nel mercato occupazionale. Questo non interessa soltanto gli studenti, cioè interessa anche il personale docente e poi anche il personale non docente. Comunque il personale docente viene derubricato a livello dei formatori dei corsi di aggiornamento, no? Che noi di corsi di aggiornamento, per esempio sul lavoro, assolutamente inutili, ne facciamo tantissimi, però come formatori di corsi di aggiornamento devono costruire personale che aderisca ai valori della società azienda in cui questo personale poi sarà inserito. Infatti una delle cose che ci colpisce di più è per esempio la spoliticizzazione, no? Che è una cosa che però non è cioè non è che si scopre adesso, è già una caratteristica delle università anglosassoni, che in passato ci colpiva in maniera particolare e soprattutto quando riguardava le facoltà umanistiche. Tant'è vero che io faccio un tipo di lavoro che passa per tecnico, no? L'architetto, ma invece non è tecnico, io l'ho sempre ritenuto un lavoro umanistico perché il pensiero viene prima della definizione tecnica. E invece, per esempio, nelle università anglosassoni sapevano e sanno fare benissimo qualsiasi tipo di progetto, una trave, un cucchiaio, una poltrona, una sedia, però non si pongono mai il problema di a cosa servirà da dove viene e dove andrà a finire. Sul piano didattico, poi, se uno va nello specifico, praticamente si deve esaltare lo spirito emulativo, la meritocrazia, l'atteggiamento servile nei confronti del docente, addirittura la delazione recuperata come valore, no? Viene frustrata la competenza, la creatività, la capacità relazionale, questo sia per gli studenti che per i docenti. E tutto questo chiaramente porta alla povertà intellettuale, alla dequalificazione, chiamiamola così, e si lega spessissimo, anche dato che c'è povertà, dequalificazione, impoverimento culturale, a predisposizioni autoritarie, attitudini fasciste, facilmente può trasformare i ceti medi in bacino di utenza della destra. Proprio perché l'approccio alla scuola è assolutamente ideologico da parte del neoliberismo, cioè un programma preciso di reimpostazione, appunto, da una parte cioè uno dei principi è la scuola azienda e quindi gli insegnanti come produttori di merce. Poi è basata sul concetto di meritocrazia, gerarchia, autorità. Il concetto di meritocrazia, per esempio, noi come coordinamento ci ha colpito moltissimo perché ne abbiamo fatto quest'estate un momento di lotta all'interno del lucernario occupato, perché lo riteniamo un dispositivo disciplinante, un dispositivo di controllo molto forte. Perché questo? Perché la meritocrazia significa imporre categorie, indici, criteri, griglie in cui si imbriglia il comportamento e si fa muovere, no, la persona. E oltretutto è un dispositivo disciplinante che ha estremo bisogno della collaborazione dei soggetti da disciplinare, oltre a essere un forte ricatto, un momento di forte ricatto materiale. Prima di tutto ti costringe, no, a introiettare la scala di valori dominanti, e quindi si convince di essere meritevole o non meritevole in base ai criteri che sono stati decisi da altri e comunque dal sistema produttivo riproduttivo e dal meccanismo, e una in effetti precipita anche nel meccanismo dell'autosorveglianza, perché se non rientra nei parametri della meritocrazia, se non passa quei famosi test, se non si sente adeguata, viene inchiodata in una posizione di subordinazione e si autocolpevolizza, si sente impreparata, inadeguata, e quindi si autocolloca in una posizione subalterna perché di fatto non merita un posto in questa società. Per l'esempio della colpevolizzazione ricorda tantissimo il rapporto che il sistema patriarcale ha con noi donne, no? Per cui ci inchioda in tutta una serie di norme, ci costringe in tutta una serie di comportamenti. Questi comportamenti vengono poi propagandati e fatti passare come normali, vengono introiettati. Chi si sente stretta, chi non riesce, perché li sente improponibile, adeguarsi, però su di sé rovescia una colpevolizzazione di fondo di cui è difficilissimo liberarsi. Questo scorso mese di settembre, il 20 e il 21, a Roma c'è stato un convegno che è stato molto propagandato ed è stato promosso dal mondo istituzionale, paraistituzionale, un convegno sulla scuola che si intitolava, in una scuola qui a Roma, nazionale, comunque un convegno propagandato appunto come importante, che si chiamava Educare alle differenze. Ed era il 20 e 21 settembre e intendeva educare le differenze di genere, soprattutto, questo è stato uno degli ambiti più però educare alle differenze significa anche alle differenze di cultura, alle differenze di razza, alle differenze di etnia, no? Educare alle differenze. Allora questo ci ha portato a fare tutta una serie di riflessioni. Perché già il termine educare non ci appartiene, nel senso che la scuola, se non altro, dovrebbe spingere a pensare, a appropriarsi del pensiero critico, a capire le cose. Educare, il termine educare già introduce un discorso che presuppone una scala di valori in cui tu devi insegnare alle persone a collocarsi, no? E va bene. Però non è questo il pensiero che ci ha attraversato in maniera principale, è stato quest'altro. Allora, la scuola è una scuola, sta diventando, è impostata come una scuola azienda, si muove secondo i criteri dell'azienda, ha sdoganato meritocrazia, gerarchia, autorità, autoritarismo, è una scuola che produce persone mercificate, persone che devono essere diciamo, devono accettare questo tipo di sistema di valori ed essere adeguatamente partecipative rispetto a come si muove questa società. Però allo stesso tempo che cosa fa? Una sorta, quella che noi abbiamo chiamato, discutendo tra di noi, un pink washing scolastico, cioè che vuol dire che tanto più la scuola viene trasformata in questo che abbiamo detto fino adesso, tanto più poi vengono introdotte nella scuola tutta una serie di attività, di iniziative per la tutela delle ragazzine, la tutela delle donne contro la violenza, contro il bullismo, per appunto educare alla differenza, educare al rapporto con il diverso. Quindi tanto più la scuola diventa reazionaria, meritocratica, gerarchica, autoritaria, tanto più ha necessità di farsi bella con tutti questi altri concetti. e per fare questo introduce due concetti che poi vengono introdotti anche nella società, che sono introdotti anche nella società, che attraversano anche la società, e è per questo che la scuola non è qualcosa di avulso, anzi è qualcosa che sta proprio infilato in questa società, con tutta se stessa. Due concetti che sono quelli di integrazione e di pari opportunità. Allora, partendo appunto da questo incontro, educare le differenze, per esempio, se una parla delle scuole multietniche, no? Delle scuole in cui tutte le diversità devono essere integrate, anche quelle sessuali, la tolleranza, la attenzione verso il diverso e compagnia bella, però in che modo c'è questa attenzione? Cioè, si crea una tecnica discorsiva che definisce quella o quello che si è integrato in maniera particolare, cioè che produce un messaggio, primo, che chi vuole davvero integrarsi e quindi chi vuole trovare un modus vivendi con gli altri e quindi chi vuole essere partecipe di tutta una serie di cose lo può fare, e quelli che non riescono a farlo sono quelli che hanno scelto di non farlo, si sono accontentati di non farlo. Quindi anche qui c'è una colpevolizzazione di fondo e si rovescia la responsabilità delle discriminazioni sugli stessi che le subiscono, e anche questo ci ricorda molto il discorso che riguarda l'oppressione sulle donne, no? Perché le donne, tutte quelle che vogliono emanciparsi, lo possono fare; quelle che non vogliono e rifiutano questo tipo di discorso non lo fanno o non ci riescono per colpa loro. Questo però lo affrontiamo dopo, no? Allora, che cosa succede? Però chi si integra significa che quello che è devoto e che ha accettato i valori di questa società. Chi non accetta i valori di questa società viene espulso. Quindi il concetto di integrazione e di tolleranza non è basato su la comprensione reciproca delle diverse culture, dei diversi modi di vivere, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente è basato sul concetto che chi si integra e chi vuole integrarsi e chi è stato capace di integrarsi e chi si trova bene è quello che ha accettato i valori di questa società. Infatti, come dicevamo, questa è l'operazione che vogliono fare e che fanno anche nei confronti di noi donne. Cioè, è questo che intendono per emancipazione e integrazione, cioè l'adesione ai valori della società patriarcale, alla sua strutturazione sessista, classista e razzista, che comporta sempre e necessariamente, per questo noi diamo molta importanza a chiarire che cosa significa emancipazione, il concetto di emancipazione, la funzione dell'emancipazione in questa società. Perché? Perché comporterà sempre necessariamente un gran numero di donne, che poi sono la stragrande maggioranza, che sono marginate, oppresse, in maniera diversa, in grado diverso, a seconda del dato biologico, censorio, etnico, no? Per cui il paradiso promesso sarebbe l'emancipazione, il raggiungimento di livelli dirigenziali della donna che ha un ruolo, eccetera. È un paradiso promesso, ma non è per tutte, è solo per quelle che si prestano a tenere nell'inferno la stragrande maggioranza delle altre. Mi hija, quédate conmigo un rato. bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay, mi amor, y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre buba a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Tra la prima e la seconda parte della trasmissione facciamo una parentesi che tratta di tutt'altra cosa. Nella seconda parte avremo dei collegamenti con delle compagne che hanno esperienza nell'insegnamento e che ci racconteranno la loro esperienza, e che proprio per questo ci racconteranno la loro esperienza. La parentesi invece tratta di tutt'altro, così un attimo facciamo un break, e si intitola Ebola. Non sapremo mai la verità su Ebola per quanto riguarda il numero dei decessi, dei contagiati. Forse la verità la conosceremo soltanto fra 20 o 30 anni. Però una cosa è sicura. Ebola è un virus micidiale, una malattia estremamente contagiosa che nasce e si sviluppa in condizioni di degrado ambientale igienico, frutto della povertà estrema e diffusa. Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, i paesi più colpiti, destabilizzati economicamente, socialmente e militarmente dalle potenze occidentali che hanno importato il neoliberismo a forza di colpi di Stato, guerre neocoloniali, fittizie rivolte interne artatamente provocate, conflitti interetnici per lo sfruttamento spietato e di rapina delle risorse locali, con la distruzione di ogni economia di sussistenza attraverso governi compiacenti e corrotti mandati appositamente al potere. Un esempio per tutti quello della Liberia, dove nel 2005 è stata eletta la prima donna presidente in Africa, Ellen Johnson Sirleaf, rieletta nel 2012. Un governo tra i più corrotti dell'Africa occidentale, spietatamente neoliberista, lei economista della Banca Mondiale e della Citibank. Ellen Johnson Sirleaf viene chiamata con l'appellativo di signora di ferro, di ben triste memoria, e che non a caso nel 2011 ha avuto il premio Nobel per la pace, Obama Docet, con la seguente motivazione: per la battaglia non violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell'opera di costruzione della pace, virgolettato. E questo per non farci dimenticare mai che le oppressioni di genere e di razza sono inscindibilmente legate a quelle di classe. Da 10 anni il livello di vita liberiano è assolutamente crollato. Mancano acqua corrente ed elettricità nella stragrande maggioranza delle case. Disoccupazione e analfabetismo sono altissimi. La popolazione vive sotto i livelli minimi di sussistenza. L'ONU invierà in Guinea, Liberia e Sierra Leone uomini e mezzi, dice, per arginare l'epidemia. Ma non facciamoci ingannare. La risposta non è umanitaria, bensì strumentale. È l'occasione per mandare in quegli sfortunati paesi migliaia di soldati, possibilmente USA. È evidente che i militari non servono a combattere Ebola, bensì a stabilire l'ennesima base militare. USA, Inghilterra, Francia e i loro reggicoda vari affamano, bombardano, distruggono le infrastrutture civili, gettano nella disperazione, nella fame, nella morte i cittadini e le cittadine di tanti paesi e poi mandano le ONG, le associazioni sanitarie, culturali, di aiuto logistico, intercambiabili nel ruolo e sovrapponibili alle agenzie di spionaggio. Ottengono così un triplice scopo: passano per democratici e sensibili, collocano le loro agenzie di intelligence, studiano gli effetti delle nuove armi e i possibili usi di quelle batteriologiche. Ebola, non avendo ancora nessuna cura e vaccino certo, è un'arma batteriologica nel senso più preciso del termine, e gli USA sono fuori controllo. Love, if I... Adesso vorremmo collegarci con una compagna di Milano, Elena, di Scateniamo Tempeste, che insegna da tanti anni e che ci racconterà la sua esperienza. Spero di non fare pasticci col telefono, ci provo. Dance me very tenderly and dance me very me to the end of love. Dance me to the end of love. Pronto? Pronto, ciao. Ah, ciao. Allora, meno male che ci siamo riuscite. Allora, siamo in collegamento con Elena, una compagna di Milano, in particolare di rock, che insegna da tanti anni. E dato che abbiamo parlato finora dei principi neoliberisti che hanno informato e che informano la scuola, e poi alla luce delle ultime uscite sulla buona scuola di Renzi, volevamo parlare con lei di quella che in effetti è la sua esperienza, cioè volevamo parlare con te di come tu, che hai attraversato tutti questi anni di scuola, dei cambiamenti che hai avvertito, di come li hai vissuti, di quello che hanno rappresentato e della tua esperienza, insomma. Sì, dunque, io ho 11 anni che insegno a scuola e all'inizio avrei voluto intraprendere un'altra carriera, perché ho conseguito un dottorato di ricerca e avrei voluto insegnare in università o comunque lavorare in università. Detto questo, negli anni è stato impossibile e ho cominciato, diciamo, questa impresa un po' casualmente all'inizio, poi ho capito che forse era l'unico sbocco lavorativo un po' più serio di altri che avrei potuto avere. Nel frattempo ho fatto anche altri lavori, mi sono fatto un'idea, insomma, di com'era quello di cui stavate parlando prima, il mercato del lavoro. Certo. E alla fine, diciamo, sempre mercato. E ho deciso di comunque proseguire nell'ambito scolastico, che tra i lavori precari sembrava quello meno precario di tutti e comunque mi dava abbastanza spazio di libertà. Pensavo che sarei entrata comunque abbastanza in fretta, non mi dispiaceva come mestiere. Detto questo, io ho 11 anni che ho contratti a tempo determinato che cominciano a settembre e finiscono a giugno, e i vari governi non hanno migliorato la situazione, soprattutto c'è stata la riforma Gelmini, è stato un disastro, quell'anno non si è lavorato assolutamente perché comunque il taglio di posti si è sentito tantissimo, e ora invece a quanto pare i posti ci sono, però la propaganda del governo fa sì che si percepisca che non ci siano, perché noi stiamo lavorando, siamo tanti precari che lavorano e ci dicono che per noi non c'è il posto a tempo indeterminato. In realtà io solo quest'anno posso inserirmi soltanto in 20 scuole, perché il mio tipo di contratto mi permette di inserirmi ogni 3 anni in 20 scuole al massimo, quindi non vengo chiamata dalla regione, ma da 20 scuole al massimo ho già ricevuto 15 telefonate, quindi in teoria il lavoro ci sarebbe. Il problema è che vogliono farci credere che non c'è, che quindi dobbiamo accontentarci di contratti molto brevi, da ultimi arrivati, quindi si fa molta fatica a lavorare poi con gli altri insegnanti. Il mondo della scuola non è assolutamente idilliaco, ognuno si fa un po' i fatti suoi. Ma dal punto di vista del tipo di lavoro, che cosa è richiesto? Che poi a sentimento e comunque anche dai dati che arrivano, nella scuola sono quasi tutte donne. Sì, nella scuola siamo quasi tutte donne. Voglio dire, che tipo di lavoro, cioè il lavoro che tu hai fatto nel tempo, no? Rispetto alla scuola, all'insegnamento dei ragazzini, come è cambiato? Come è cambiato? È cambiato che sono cambiati i libri di testo negli ultimi anni, e io vi stavo ascoltando prima ed è vero che si punta molto di più sulla questione dell'integrazione, il rispetto per le donne, la legalità. Ecco, la legalità ce l'avevamo dimenticata. La legalità no, è proprio il must. Vengono i carabinieri a scuola alle medie a fare lezione ai ragazzi sul senso del rispetto, il senso del dovere, certo, la meritocrazia, cioè comunque questa cosa è presente e è abbastanza forte, soprattutto per me che insegno italiano. Sì, basta aprire un libro di antologia, cioè tra le varie cose classiche che sono un romanzo di avventura, quello giallo, poi c'è la paginetta sulle donne, quanto sono sfruttate nei paesi arabi, possibilmente quanto sono libere da noi, quanto è diversa la società occidentale, e poi la realtà è tutta diversa, perché comunque noi ci troviamo veramente ad avere in classe ragazzini che vengono da tutte le parti del mondo, che a cui non interessano questo tipo di cose, vorrebbero imparare altro, cioè. E hanno un impatto devastante anche sui ragazzi, perché cioè comunque beh certo, so, è comunque un'impostazione eurocentrica, occidentalcentrica, no? Per cui sì, comunque è tutto di trasmissione dei valori, soprattutto in discipline umanistiche come storia, italiano, geografia, con ancora gli Stati Uniti portatori di libertà e libri di geografia rimasti ai tempi in cui c'era l'Unione Sovietica e bisognava propagandare che era cattiva. Ecco, beh. E quelli non sono cambiati quelli. No, i buoni tutto... e cattivi. Sì, come da quella canzone, arrivano i buoni. Sì. E, no, l'unica cosa che mi rende ottimista è che secondo me sui ragazzini non hanno assolutamente preso questo tipo di discorsi, e, perché comunque cioè, io credo che loro vorrebbero pensare con la loro testa. Li trovano terribilmente noiosi, perché poi di fondo sono molto vuoti anche, certo, nel senso che non si può proporre a un tredicenne il rispetto incondizionato della legalità come grande valore. Certo, speriamo almeno, anche se chiaramente la scuola ha un peso molto importante per tanti anni, ed è, non è un caso che abbia anche, ti dico una cosa che io ho sempre sentito, degli orari precisi, no? Cioè uno si deve alzare presto, deve arrivare in orario, è una formazione che prelude al mondo del lavoro, no? Ti devono più o meno inquadrare, devi riuscire a stare seduto per tante ore, no? Sì, certo. Non devi disturbare. Poi sempre di più, perché comunque gli orari scolastici si sono spesso allungati. Certo. Senti, e una poi cosa. Tutte le materie vengono valutate con dei punteggi, anche quelle artistiche, creative, comunque si valuta una percentuale del lavoro svolto, quindi comunque c'è già un certo tipo di impostazione. Io una cosa volevo chiederti, che mi ha colpito tantissimo da quello che ho sentito, che è questa cosa del lavoro volontario, no? All'interno della scuola. Io mi ricordo che tanti anni fa Nerina, che aveva il consultorio autogestione, cioè c'era ancora a Bergamo, si era scagliata in maniera molto forte ed è stata mangiata viva per questo contro il concetto di volontariato, perché lei diceva, perché questo, diciamo, avendo lei un consultorio autogestito, il concetto di volontariato invece attraversavano tutti le parrocchie, i centri cattolici, no? Tutte queste cose qui con cui lei purtroppo si scontrava continuamente, e lei si scontrava anche, cioè ha preso aveva affrontato in maniera molto forte il concetto di volontariato, perché lei diceva fa passare l'idea del lavoro gratuito, che uno può dare lavoro gratuito e questo sarà usato in maniera fortissima, e infatti a quanto ho sentito questo attraversa anche la scuola. Certo, infatti vabbè, dove lavoro io in provincia di Milano i mediatori culturali per i ragazzini che non parlano italiano non vengono quasi più chiamati, e vengono chiamate le volontarie, le maestre, le professoresse in pensione, che magari sanno un po' di inglese o di francese, tentano di arrabattarsi su. Poi, vabbè, noi insegnanti comunque Ma appunto anche voi dovete dare tanto tempo. Ci viene fatta una pressione fortissima per fare le uscite didattiche gratis, per comunque dedicare buchi orari ai ragazzini magari più disagiati, con un senso di colpa nei nostri confronti, perché se non lo fai sei cattivo, sei cattiva e te ne freghi, e tutto il lavoro di progettazione anche didattica, di cui non si parla assolutamente più perché ognuno si fa il suo percorso, viene richiesto di farlo se volete, poi vi trovate al di fuori, ne parlate al di fuori, vi sentite al telefono, volete fare la riunione, vi lasciamo un'ora, però è tutto lavoro assolutamente non pagato questo, e sì, va a scapito secondo me sia del lavoratore sia poi di tutto il sistema in genere, perché comunque è anche un lavoro che non vale più, perché se lo possono fare tutti, certo, con qualsiasi, cioè i risultati non contano, non serve niente, l'importante è che sia fatto, tutti sono in grado di farlo, e è chiaro che tutto viene meno, cioè viene meno anche l'attenzione secondo me poi ai più deboli, che sono i ragazzi, che sono quelli per cui lavoriamo in teoria. Certo. No, ma poi c'è anche il concetto che chi lavora deve partecipare in maniera forte e totalizzante delle sorti, chiamiamola, dell'azienda, no? In generale questa azienda potrebbe essere anche la scuola, dell'azienda per cui lavora. Quindi se tu non fai non fai attenzione alle sorti dell'azienda, quindi ti rifiuti di non so, collaborare gratuitamente, significa che appunto vieni colpevolizzata. Per sì, esempio, certo, il fatto delle gite scolastiche, queste cose qua. Sì, e comunque oggi Giannini ha parlato di missione. Ah, missione. Proprio dal ministero viene questa direttiva, dice nei prossimi anni le graduatorie saranno chiuse, vincerà il concorso solo chi si applicherà a tal punto da viverlo come una missione. Ho capito. E quindi vediamo dove sì, va a parare, addirittura siamo arrivati, voglio dire, sarei partita. Tu ti senti una missionaria. Per fare la missionaria. Tu ti senti una missionaria. Un lavoro che ho preso, come a me all'inizio piaceva anche molto, ora un po' meno sinceramente, insomma io credo che un lavoro uno lo scelga a seconda delle sue attitudini, delle sue possibilità, non può valutare altro intorno, di tantissimi fattori, ma la missione non lo so, la posso fare nel privato se voglio aiutare qualcuno, non lo so. No, vabbè, non, è un problema di ricatto, certo, è fondamentalmente l'impostazione di un ricatto nei confronti di chi lavora, che viene poi che nella scuola è particolarmente pesante perché ci sono i ragazzi, no? Cioè sì, lo fanno anche sui posti di lavoro in generale, però nel momento in cui ci sono i ragazzi e i ragazzini che ci vanno di mezzo, è chiaro che il ricatto è particolarmente forte. No, certo, poi è passata molto l'idea che cosa ci vuole, cioè tutti possono fare questo lavoro, chi se ne frega, va bene il volontario, va bene chiunque, perché tanto basta non pagare e basta trasmettere una serie di valori. Certo, perché quello che gli interessa non è la crescita, certo. È la crescita assolutamente. Oddio, la scuola è sempre stata catena di trasmissione dei valori dominanti, però c'era un equilibrio diverso nelle richieste, nelle offerte, nelle richieste, e quindi si manteneva sempre un certo tipo di, se non altro, equilibrio fittizio, no? Rispetto a quelli che erano gli obiettivi di una scuola, quello che doveva dare la scuola. Adesso questo è assolutamente tracollato, è evidente che non gliene importa niente, ci vogliono solo che vogliono tirar fuori individui asserviti, cioè che devono rispondere a determinati requisiti e accettare tutta una serie di regole. Sì, certo, anche il pensiero autonomo è pochissimo. Comunque si tenta pochissimo di svilupparlo. Senti, una curiosità, per esempio nella tua esperienza come appunto, dato che è un lavoro in cui ci sono tantissime donne, come donna, le donne che importanza danno a questo lavoro? Che cos'è per loro? Allora, in generale è molto difficile da dire. C'è da dire che dopo tanti anni io mi sto rendendo conto che molte lo fanno come lavoro perché a casa si annoiano e quindi lo vivono davvero come una missione, non gli importa del reddito, hanno spesso cioè, mi sento veramente, non mi piace dirlo, però hanno mariti molto benestanti, facoltosi, sono annoiate dal fatto di stare a casa da sole, i figli sono già grandi e quindi si inseriscono in questo tipo di lavoro per non annoiarsi, secondo me con dei danni devastanti rispetto a chi comunque ha bisogno di lavorare davvero e che quindi chiede tutele. Quindi è impostato, cioè è considerato comunque un momento di emancipazione per loro? Sì, di emancipazione dalla noia, di emancipazione vera, nel senso che le insegnanti ovviamente non sono tutte uguali e soprattutto tante vecchie leve, diciamo, chi ha 50 anni, 60 e più, comunque spessissimo viene da percorsi molto diversi da quelli di chi è più giovane. E spesso anche una sicurezza familiare economica differente, per cui rispetto alle giovani generazioni un diciamo. Giorno potrà lasciare perché magari non va più bene, non gli interessa più, il lavoro è un hobby, è una cosa che dà pienezza alla vita, appunto. Invece le giovani generazioni sono in una situazione completamente diversa. Eh sì, perché comunque anche, come dire, le famiglie alle spalle cominciano a venire a mancare e uno deve, cioè deve portarci a casa uno stipendio anche dal lavoro. Comunque a me sembra che così come cioè come visione sociale a tutto campo l'aumento delle donne in determinati posti di lavoro, purtroppo, dico purtroppo perché quindi risponde a tutta una serie di gerarchie, di scelte sociali, di strutturazione di fondo, cioè più un lavoro è cioè preso dalle donne, più significa che questo lavoro ha è calato nell'importanza e nella considerazione sociale o comunque non porta un reddito adeguato. Questo succede un po' in tantissimi posti, tant'è vero che cioè è un po' in tutti i campi in cui la considerazione sociale economica viene meno, il lavoro poi diventa femminile, no? Allora il fatto che ci siano tante donne non può essere anche il fatto che man mano la scuola ha perso di importanza, è stata ridotta al rango di momento di collocazione temporanea di parcheggio di studenti e quindi non serve più dare adeguato stipendio, adeguati soldi e quindi è stato femminilizzato, diciamo così. Sì, io penso che sia evidente che è così, infatti è forse tra i lavori, insomma, se possiamo dirlo, da laureato, quello più dequalificato, almeno anche in un immaginario, credo, nazionale, non so come definirlo, insomma, collettivamente chi pensa a un insegnante pensa a un lavoro, insomma, che può fare una persona ignorante, che non ha voglia di stare tante ore sul posto di lavoro, che deve destreggiarsi fra dei ragazzini e che quindi è adatto alle donne. E poi contemporaneamente però c'è tutto un lavoro di cura, se sì, dirlo. Esatto, è in effetti un lavoro di cura. Bene, allora, dato che tu hai avuto anche per quest'anno, mi pare, il tuo lavoro di cura. Sì, non si sa fino a quando, perché per ora le graduatorie non sono state ancora pubblicate, quindi per ora è a tempo fino a 20 diritto. Va bene, allora buon lavoro di cura, grazie del contributo, come è in bocca al lupo, come si dice, crepi il cacciatore. Grazie, grazie Elena. Ciao, ciao. Ciao. Something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. Honey, maybe, maybe, maybe, maybe, yeah. But I know that it just doesn't ever seem to matter, baby. Oh, honey, when I go out of what I'm trying to do, 'cause you see I'm still left here. E dopo questo collegamento con Elena, volevamo darvi l'input di due articoli che pensiamo siano abbastanza importanti per l'analisi e la descrizione di quello che sta accadendo. Uno si intitola Scuola, cronaca di una morte annunciata. Noi l'abbiamo pubblicato su coordinamenta.onoblogs.org, che è il nostro blog, però l'abbiamo preso da Carmilla Online, cioè www.carmillaonline.com, ed è di Silvia Di Fresco. E praticamente lei parla proprio di quello che è successo quest'estate e di quello che sta succedendo ultimamente, e analizza un attimo tutto quello che viene posto. Vi leggo l'incipit, che dice: descrivere quanto accaduto a luglio sembra semplice. Il 6 luglio il sottosegretario all'istruzione Roberto Reggi ha dichiarato in un'intervista a Repubblica che nel giro di una decina di giorni sarebbe stata emanata una legge delega rivoluzionaria. I professori, in cambio di un salario più alto, avrebbero dovuto lavorare di più, sostituendo anche i colleghi in malattia ed evitando così la chiamata dei supplenti. A tale dichiarazione sono seguite, rimbalzando sulla stampa, proteste immediate dei docenti, indignazione successiva da parte dei sindacati confederali e non. 5 giorni dopo, il suddetto Reggi, al cantiere scuola del PD a Terrasini, e la ministra Giannini a Radio Vaticana hanno smentito, affermando che i docenti solo volontariamente avrebbero potuto lavorare di più, ottenendo così un aumento stipendiale che premiava la buona volontà di chi a scuola si dà da fare, perché, ribadiscono, i gatti mica sono tutti grigi, questo è virgolettato. Hanno inoltre aggiunto che no, non si tratta di una legge delega, ma di una proposta al vaglio del governo da approvare a settembre, e che i privati avranno un ruolo importante nel far ripartire la scuola pubblica, perché basta coi soliti pregiudizi ideologici. A questo punto tutti i soggetti coinvolti hanno tirato un sospiro di sollievo e sono andati in vacanza. E invece no. In realtà ad andare in vacanza sono stati solo coloro che si adeguano con estrema duttilità alle proposte governative e alla trasformazione della società in atto. Tutti gli altri sono invece rimasti con la loro rabbia, la loro preoccupazione, la loro frustrazione a pensare quale ulteriore supplizio li attenda a settembre. Toda caricia, me acerco al fuego. Que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca y un ruego en el alma, un ruego en la boca y un ruego en el alma. Poi c'è un altro articolo che ancora non è pubblicato sul nostro blog, che ha scritto Noemi, una compagna della coordinamenta. Lo pubblicheremo sul blog perché ha fatto uno sforzo importante di analisi della buona scuola di Renzi. Infatti dice: la buona scuola ma buona perché si mangia? La scuola intesa da Renzi sarà responsabilità e frutto della collaborazione degli studenti, del governo e degli insegnanti. Proverò ad analizzare punto per punto questa riforma. Non mi dilungherò molto nell'analisi, userò direttamente la fonte per descrivere l'ennesimo e nemmeno troppo creativo sfacelo della scuola. E infatti lei affronta punto per punto, diciamo, la famosa buona scuola e i principi a cui sono informata, che di fatto sono quelli che abbiamo detto noi finora. Vi rimando al nostro blog per leggerlo, perché è molto lungo, però ha cercato di essere abbastanza esaustiva e precisa. Vi vogliamo parlare di un'iniziativa che ci sarà domenica 12 ottobre con la Resistenza palestinese al centro sociale IPO, via del Giardino Vecchio a Marino. Sarà alle ore 17:30, ci sarà un incontro dibattito col comitato Canafani e alle ore 20:30 cena a sottoscrizione. Allora, perché vi diciamo leggiamo e vi diamo questa iniziativa? Perché come compagne femministe, come compagne della coordinamenta, la riteniamo particolarmente importante, e vi leggiamo un documento che abbiamo scritto, un mini documento che abbiamo scritto in proposito, proprio perché come femministe affrontiamo questo tipo di problematica. L'incontro con i compagni e le compagne del comitato Ghassan Canafani affronterà, attraverso il racconto e l'analisi della resistenza palestinese, la necessità di rilanciare l'antiimperialismo come elemento centrale della teoria e della pratica anticapitalista. Il tema ci sta molto a cuore e crediamo fermamente che tale priorità appartenga anche al discorso e alla pratica femminista. perché come femministe parteciperemo a questa iniziativa. Come abbiamo detto numerose volte, siamo consapevoli che il capitalismo, oggi declinato nella sua fase neoliberista imperialista, procede depoliticizzando il conflitto politico ovunque esso si manifesti. In Palestina lo vediamo all'opera quando, mistificando e snaturando la resistenza palestinese, criminalizza l'azione rivoluzionaria di alcuni gruppi politici, vuole ridurre la causa palestinese ad un affare umanitario. Rispetto all'oppressione di genere lo vediamo altrettanto all'opera quando, propagandando e sostenendo la cosiddetta emancipazione femminile, riduce la lotta di genere ad una questione di parità di diritti, portando il più delle volte come ulteriore risultato l'occupazione di singole donne ai vertici del sistema politico ed economico finanziario. L'imponente apparato di organizzazioni non governative e associazioni coordinate con altrettanto imponente apparato burocratico umanitario dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali, nonché con i governi nazionali occidentali, è il vettore principale di tale strategia di neutralizzazione. Il lavoro di questo variegato mondo dell'associazionismo è intriso di uno smaccato paternalismo che vorrebbe soffocare sotto una grande calotta di protezione le cosiddette minoranze oppresse, espropriandoci delle nostre lotte di liberazione e tenendoci legate ad una condizione di dipendenza. Il paternalismo però e la relativa condizione di dipendenza in cui ci veniamo relegate comporta una conseguenza ulteriore. Se provi a sottrarti alla protezione, se ti fai carico della tua liberazione e cominci a combattere in prima persona, ti scontri inevitabilmente con l'apparato repressivo. Anche qui possiamo mettere a confronto ciò che accade in Palestina e ciò che accade a casa nostra. Se il conflitto israelo-palestinese viene letto solo attraverso la lente della violazione dei diritti umani e non come un conflitto politico imperialista, si arriva al paradosso di sostenere il popolo palestinese solo se subisce passivamente l'aggressione israeliana. Quando invece dimostra la sua incredibile forza e combattività, si prendono le distanze, si guarda con diffidenza, se non con paura e riprovazione, chi si è fatto carico del conflitto, andando a giudicare quegli atti tutti politici attraverso categorie morali. Allo stesso modo, quando una donna è vittima di stupro, ha come unica alternativa socialmente accettabile quella di recitare la parte della vittima che chiede protezione, perché se si ribella le si apriranno le porte del tribunale e poi del carcere. Le pene comminate a donne che uccidono i mariti dopo anni di denunciate violenze sono incredibilmente alte. Stessa conseguenza se decide di praticare un aborto al di fuori delle strutture sanitarie statali. La coercizione riguarda quindi un doppio fronte, quello della repressione vera e propria, intesa in senso militare e carcerario, e quella della sanzione sociale, intesa come giudizio morale della società. Vogliamo riportare ad un'unità la resistenza palestinese e le nostre lotte, perché partendo da noi riconosciamo immediatamente l'identità del nostro nemico comune, perché non esistono eventi estranei ed esterni. Ciò che accade all'esterno dei confini nazionali è legato a doppio filo a ciò che si svolge dentro i confini, perché percorriamo le stesse pratiche di liberazione. Per tornare al punto di partenza, la necessità di affrontare il tema dell'imperialismo e ridare centralità al discorso e alla lotta antiimperialista non è più procrastinabile e passa innanzitutto nella resistenza alla propaganda mediatica e all'egemonia culturale e nel dotarci di strumenti di analisi all'altezza del nostro tempo. To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Quindi in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento con la resistenza palestinese domenica 12 ottobre dalle ore 17:30 in poi al centro sociale IPO, via del Giardino Vecchio, Marino. E con questo vi salutiamo. La coordinamenta femminista e lesbica tornerà mercoledì prossimo alla solita ora. Grazie a tutte e a tutti. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution. Hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. This is not really happening.